140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Pianoforte, tromba, due preziosi compositori per una colonna sonora. Fight for Freedom per il doc, da Clay a Ali. Roy Paci, Remo Anzovino. Com'è andata? È andata che ci siamo innamorati uno dell'altro. Questo è proprio l'ingrediente base. No, in effetti Remo è venuto a dei concerti, abbiamo proprio consacrato questa amicizia in una data che ho fatto dalle parti sue. E poi quando ha ricevuto questo ennesimo lavoro da fare come colonna sonora per questo film, ha ritenuto per lui giusto coinvolgere il sottoscritto in questa operazione, quindi io non so cosa dire se non grazie a Remo per questa avventura musicale che va a scavalcare anche quelle che sono le semplici, diciamo, conversazioni musicali, perché di base c'è una intesa, una stima, un'amicizia, una grande sinergia che è stata fondamentale per questo lavoro e io mi auguro che sarà fondamentale anche per i prossimi lavori che faremo insieme. È stato magico perché avevamo solo 3 giorni a disposizione, non avevamo le immagini del film, ma sapevamo la storia, come la voleva raccontare Emanuela, e quindi questo ci ha dato la libertà di creare della musica che fosse totalmente autonoma dal racconto filmico, ma che poi in montaggio si appoggiasse perfettamente sulle volontà e sui desideri di Emanuela e di Michele Malli, che ha montato il film. Questo ci ha fatto anche capire che forse questo è un lavoro che aiuta forse a spostare anche l'equilibrio di quello che a noi pare a volte c'è, cioè, una maniera di scrivere il cinema oggi in cui insomma la musica, a un certo punto finito il film, quasi non te la ricordi. Invece noi pensiamo che la musica, i musicisti devono portare della musica al cinema, non fare della musica per un film, portare della musica ad un altro linguaggio che lo valorizzi e riesca a compenetrarsi. Che questo disco stia andando bene proprio come disco, che è un po' una rarità per una colonna sonora. No, ma infatti la nostra felicità non è vedere il disco al primo posto della classifica delle colonne sonore di iTunes e constatare che nella top 10 di cui siamo stati primi e continuiamo a essere in vetta, siamo gli unici autori italiani in questo momento. Ma questa felicità non è legata alla classifica, è legata al fatto che forse nel nostro piccolo abbiamo cercato di dire questo, cioè se hai la fortuna che, ed è una fortuna che una persona ti dice fai tu la musica per Mohamed Ali, il minimo che tu possa fare è fare il massimo della musica che tu puoi fare. Io non ho scritto le musiche mai guardando le immagini di un film, ma sempre ricordando l'emozione che la prima visione di un premontato mi dava e scrivendolo e chiudendo gli occhi, perché un film, se è bello, ti tira fuori le emozioni che avevi già dentro. Sì, e poi è stato bello anche, Marta, rievocare momenti del passato che entrambi abbiamo vissuto in famiglia, cioè i genitori che guardavano Mohamed Ali la notte, no? Collegati con questi televisori a bianco e nero. Sì, mio nonno era appassionatissimo. Mio padre pure, quindi anche mio padre. È stato un momento anche catartico. Sì, sì, assolutamente. We'll be right back. è iniziata questa avventura, dovete andare avanti, ci avete preso gusto a collaborare? Ce lo dite in tanti, questo è vero. Ce lo dite in tanti, ma soprattutto stanno arrivando un sacco di richieste da parte degli organizzatori che ci chiedono questo spettacolo dal vivo, ma si farà, non si farà? Io tra l'altro ho finito da pochissimo un album, il nuovo album con il mio progetto Re Bacere Tusca, che dopo 5 anni insomma devo tirar fuori, spero che uscirà proprio a fine primavera o prima dell'estate. Remo c'ha i suoi progetti, però con queste richieste sinceramente forse stiamo cambiando un po' la schedule di tutta una serie di cose, perché potrebbe darsi che qualche data riusciamo a farla, e soprattutto la vorremmo realizzare in posti particolari, e visto che possiamo anche fare un live utilizzando le immagini in esclusiva. Ci vengono date proprio dalla produzione, da Emanuela, che sono rimasti chiaramente molto felici delle musiche che abbiamo date, quindi ci danno questa grande possibilità. Insomma, immaginare questo gruppo che dal vivo suona con le immagini rimontate del film, penso che possa essere effettivamente un bellissimo viaggio dal vivo. E anch'io stiamo un po' capendo, che anch'io ho la sensazione che abbiamo voglia di farlo da vivo, perché credo che da vivo ci potrà dare delle ulteriori sorprese. Certo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Roy Paci e Remo Anzovino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.